rosso dell'amore, la verde primavera, la bianca purezza, il blu che sa d'eterno, l'innocenza e la neve le notti d'inverno. Nannai, nannai, nannana, nannai, nannai, nannana, nannai, nannai, nannana. Nannai, nannai, nannana, nannai, nannai, nannana, nannai, nannai, nannana. Tutto quel che ho dedicato a vivere e sperare, sono certo sarà tempo speso bene. Un giro tondo di colori, questa poesia infinita da cantare, da ascoltare, da sentire. E giallo come il sole, la luce della redenzione che porta il cambiamento ad una nuova situazione. Riempirò col viola preferito dai bambini il mistero, la magia, suggestione, malia e di grigio. Si ce l'ho, usarlo mai potrò, io non starò qui a guardare, non coinvolto e neutrale questa materialità che in abito marrone danza intorno sorridente propiziando seduzione. Nannai,